Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Salva Danaio. Non facciamo altro da molti mesi a questa parte che parlare di tutti gli aspetti che riguardano la crisi economica e finanziaria in corso, fra chi è in ritardo con la rata del mutuo, chi rischia di perdere il posto di lavoro o forse gli è già successo, chi fa fatica ad arrivare alla fine del mese, chi sta perdendo anche i suoi risparmi. Oggi ci vogliamo aggiungere anche i giovani che, armati dei migliori sentimenti, vorrebbero mettere su casa, sposarsi, cominciare una vita a due, ma fanno i conti veri e propri con questi progetti, con questo progetto che dal punto di vista economico, anche facendo le scelte più semplici, è proprio impegnativo. Allora oggi vogliamo parlare di matrimonio, sempre chiedendo ovviamente il vostro supporto. Vogliamo sentire le giovani coppie in procinto di mettere su famiglia. Come state organizzando la vostra cerimonia, la vostra vita a due? Risparmio o scelte in grande? E poi avete pensato anche a come organizzarvi dal punto di vista patrimoniale? Avete scelto la comunità? Unione o la separazione dei beni? Perché è bene fare anche una riflessione attenta su questi aspetti. Nessuno pensa in prospettiva di separarsi, è naturale nel momento in cui ci si accinge a compiere questo passo, però se capita è meglio mettersi d'accordo sulla divisione o meno dei beni, perché poi nel momento in cui la separazione avviene questo diventa motivo di conflitto enorme, come molte esperienze raccontano. E allora oggi mettiamo insieme un po' questi aspetti. Ovviamente, come ripeto, ci piacerebbe sentire la vostra opinione o magari anche la vostra esperienza all'800 24 00 24 per intervenire in diretta, ma ci potete anche scrivere dei messaggi al 349 238 6666. Chi vi mettiamo oggi a disposizione per commentare questo tema? Anita De Sapio, titolare di Adi Marriage, è un'agenzia abruzzese che si occupa proprio di organizzazione di matrimoni, una wedding planner, questo è il termine anglosassone, che potrà dare anche dei suggerimenti su come organizzare la cerimonia se siete magari ancora agli inizi dei preparativi e non avete idea di dove cominciare. De Sapio, buongiorno. Buongiorno a lei. Grazie, salve. Grazie di essere intervenuta a Salva Danaio, così come ringrazio per essere tornato a trovarci l'avvocato Andrea Gragnani, esperto di diritto di famiglia, anche firma frequente sulle pagine del Sole 24 Ore. Avvocato, buongiorno. Grazie a voi, buongiorno. I numeri per intervenire ve li ho ricordati, adesso diamo un'occhiata alla borsa prima di partire, borsa che questa mattina è così un po' ballerina in Europa, ma siamo in attesa del dato sul prodotto interno lordo americano che arriverà nel primo pomeriggio. Ieri dagli Stati Uniti abbiamo avuto dati economici confortanti, dati relativi alle vendite di nuove case, agli ordini di beni durevoli, dati che hanno dato un certo sprint di nuovo alla borsa americana. Molto bene stamattina si è comportata anche la borsa asiatica su tutti i versanti geografici, mentre l'Europa è un po' più incerta. Parigi sta perdendo lo 0,15%, Francoforte guadagna lo 0,6%, Londra più 0,18%, Milano più 0,46%. Sotto i riflettori, nelle attenzioni degli operatori questa mattina, abbiamo il Banco Popolare che sta guadagnando 6,5 punti, Fiat più 5,21. Il settore automobilistico stamattina sta andando benino. Per Fiat c'è anche lo stop della cassa integrazione a Mirafiori e quindi questa è un'indicazione appunto che evidentemente viene colta con grande consenso da parte del mercato. Il titolo sta recuperando i 5 euro. STM più 5,17, Saipem più 3,85. Il settore bancario oggi bene anche Intesa San Paolo più 3,25, Banca Monte dei Paschi più 2,64 e UbiBanca più 2,38. Mentre dall'altra parte troviamo altri titoli bancari un po' più in difficoltà: Unicredit meno 1,80, Mediolanum meno 1,79. Però il peggior titolo è Mondadori che sta perdendo 4,5 punti. Lasciamo la borsa, andiamo subito al tema di questa mattina, vediamo un po' quale grado di interesse susciterà da parte vostra. Parliamo di matrimonio, quanto mi costi? In tempo di crisi, si sa, è bene tener d'occhio il portafogli e tagliare le spese superflue. Ma una cosa è certa, se si tratta di matrimonio, gli italiani fanno le cose in grande, al punto tale da alimentare una vera e propria industria. E se da un lato, comunque, complice la crisi economica, il numero di matrimoni, ma anche di divorzi, risulta essere in calo, ad aumentare sono i costi relativi alla cerimonia. Secondo i dati di Federconsumatori, un matrimonio costa in media non meno di 27.000 euro, contro i circa 19.500 di 7 anni fa. A conti fatti, il 40% in più rispetto al 2001. Per pronunciare le tre parole fatidiche, sì, lo voglio, si possono spendere infatti migliaia di euro. Si parte dai 16-18 mila euro e ci si avvicina ai 25-27 mila per un rito di livello medio, superando i 40-50 mila euro per una cerimonia in grande stile. Tutto naturalmente dipende dalle scelte degli sposi. Davanti al 27% delle coppie che spende meno di 10.000 euro, c'è infatti un altro 16,7% che arriva a spenderne tranquillamente più di 30.000. Le voci di spesa non sono poche. Si va dalle partecipazioni, che possono oscillare tra i 200 e i 350 euro, ai costi amministrativi, dal bouquet e i fiori per addobbare la chiesa, alla musica che farà da colonna sonora alla cerimonia. L'abito da sposa è naturalmente il tassello fondamentale del matrimonio. La scelta è quindi uno dei primi pensieri, anche perché il costo varia tra 2.800 e 7.500 euro, senza considerare le scarpe, il trucco e l'acconciatura. Poi ci sono le fedi, tra 400 e 1.000 euro, il noleggio dell'auto, tra 700 e 1.200 euro, e il fotografo. Tra video, foto e album si possono spendere dai 3.000 ai 4.000 euro. Fra le voci che pesano di più sul bilancio finale c'è sicuramente il pranzo, con menù che variano dai 40 ai 150 euro a persona, compresa la torta nuziale. Infine la luna di miele, che a ben vedere non ha poi nulla di sdolcinato. I costi sono così vari da rendere difficile la determinazione della spesa media, ma non è sbagliato mettere in preventivo un conto salato che varia dai 6 ai 10 mila euro. Non resta quindi che farsi coraggio, annotare tutte le voci di uscita e le modalità di pagamento per non perdere di vista l'obiettivo finale: coronare il sogno di una vita. Beh, in realtà, a giudicare da tutta la lista di costi che abbiamo fatto venire probabilmente un po' di ansia ai nostri ascoltatori, anche all'avvocato Gragnani, che già è giovane, non è sposato e dopo quello che ha sentito non ci pensa neanche minimamente. Continuo così. Infatti, Anita De Sipio, il bello è che ieri ce lo siamo detti anche al telefono, sbagliano sempre il mio cognome, io ovviamente stamattina non sono mancata all'appello, mi scusi. Allora, Anita De Sipio, titolare di AD Marriage, ancora buongiorno, mi perdona? Buongiorno. Sì, ci mancherebbe, anche perché l'errore questa volta l'ha fatto su un'altra vocale. Ecco, appunto, quindi abbiamo così incrementato. Esattamente, adesso speriamo però di non suggerirlo a chi prossimamente la inviterà a qualche altra trasmissione. Allora, quello del matrimonio è un business non indifferente. Tra l'altro, proprio stamattina abbiamo trovato un curioso articolo sulla Stampa: il mio grosso caro matrimonio a Roma, la capitale, è una delle città preferite dagli sposi per celebrare il matrimonio. Roma scopre il business delle nozze, ma sarebbe in arrivo una tassa per i non residenti. Ieri il sindaco Alemanno ha fatto sapere che però la misura non riguarda i residenti, cioè far pagare quelle coppie che da altre città italiane vogliono andarsi a sposare nella capitale. De Sipio, le capita anche questo quando le chiedono di organizzare un matrimonio? Di andare a scegliere magari delle mete particolari? Guardi, io vivo in una regione, l'Abruzzo, che non ancora diventa terra appetibile soprattutto per gli stranieri, perché io penso che il riferimento a cui lui accennava della tassa per coloro che intendono andarsi a sposare a Roma è soprattutto legato al fatto che ci sono comunque molte persone che anche dall'estero scelgono l'Italia e tutti quanti i paesi più belli che l'Italia, gli scorci più belli che l'Italia propone per venirsi a sposare, e quindi chiaramente c'è un sovraccarico di lavoro per questi borghi, queste città, questi comuni, che comunque deve essere smaltito in qualche maniera. L'ultimo ritrovato tra l'altro è stato quello del comune di Verona, che ha messo a disposizione la casa di Romeo e Giulietta. Si può pagare, esatto, da un minimo di 600 euro per le coppie residenti a Verona ad un massimo di 1.000 euro per gli extracomunitari, ma qui siamo proprio ovviamente all'eccesso. Credo che adesso, De Sipio, non so cosa le sta succedendo, ma le coppie che cosa le stanno chiedendo? Magari vogliono la migliore organizzazione possibile del matrimonio, però risparmiando anche? Che cosa sta così un po' osservando? Io noto questo, sicuramente la professione che io esercito del wedding planner è una professione comunque nuova per l'Italia, anche se per quanto mi riguarda l'esercito da più di 15 anni, e l'interesse nei confronti di una persona che possa affiancare gli sposi nell'organizzare il loro matrimonio sicuramente è cresciuto, però questo anche perché sono cresciute proprio le aspettative che gli sposi hanno nei confronti confronti di questa giornata che è per molti è vista come la giornata più importante della vita. Indubbiamente la crisi che sta toccando tutti i settori della nostra economia si sta facendo sentire, anche se in maniera marginale, nell'ambito dell'organizzazione dei matrimoni, anche perché, come dicevo prima, soprattutto nell'Italia centro-meridionale, territorio nel quale io lavoro, comunque i numeri degli invitati che vengono gestiti all'interno di un matrimonio rimane e continua ad essere ancora molto, molto elevato. Sì. E questo comunque capirà da se stesso, anche prima abbiamo sentito delle cifre di riferimento relative soprattutto alla banchettistica nuziale, sono quelle che poi fanno salire molto il costo di un matrimonio. So che per esempio nell'Italia settentrionale si riescano a gestire matrimoni che non superano i 50-60, che non superano le 50-60 unità. Qui da noi questi sono numeri che neanche ad una pizza tra amici fra un ma po' neanche una comunione. Benissimo, insomma abbiamo messo un po' di carne al fuoco. Io invito ancora i nostri ascoltatori a chiamarci, ne vedo già qualcuno pronto ad intervenire, anche se per la verità l'ascoltatore che si è aggiudicato la palma del primo ad averci scritto un messaggio al 349-238-6666 Mario da Mantova, che scrive: io in realtà mi sto separando, aspetto una puntata a tema, oppure potete parlare dei costi oggi. A noi era venuto in mente di affrontare l'argomento della vita di coppia e portarlo a Salvadanaio perché ci aveva incuriosito un articolo del Messaggero Veneto secondo il quale le separazioni legali sarebbero, a causa della crisi, in netto calo, e separarsi è complicato. Vorremmo mettere da parte questo argomento questa mattina, però il tema è anche questo, insomma la crisi economica si fa sentire a più livelli. Detto questo, prima di compiere il grande passo e prima di pensare ad un'eventuale separazione, su che cosa sarebbe bene mettersi d'accordo, avvocato Gragnani? Beh, sarebbe bene avere le idee chiare su quello che deve essere il regime patrimoniale della famiglia. Che questa è un'espressione forse un po' ridondante, perché intende dire qual è il regime patrimoniale degli acquisti che vengono compiuti dai coniugi durante il matrimonio, quindi non è in realtà un regime patrimoniale che riguarda, quantomeno per quanto riguarda gli acquisti, la famiglia, non è che sono acquisti in favore dei figli. In Italia il nostro ordinamento prevede sostanzialmente due alternative, che sono la comunione dei beni o la separazione dei beni. Il problema è che in Italia non c'è la cultura di andare prima dall'avvocato di quando sorgono i problemi o di quando si stanno facendo le cose, si va dopo. Quindi in genere da noi arrivano le persone che si devono separare, non le persone che si devono sposare. Perché noi non abbiamo tra l'altro neanche il modello americano dell'accordo prematrimoniale. No, quello no. L'accordo prematrimoniale non è possibile. Questo non significa che non ci sia la possibilità di fare... Di stipulare magari dei contratti. No, non sono tanto dei contratti, sono proprio... Dal punto di vista negoziale si sceglie il regime patrimoniale, questa è l'unica cosa fattibile. Poi non si può fare come si fa negli Stati Uniti o in Inghilterra, cioè decidere di stabilire a priori quelle che saranno le conseguenze di un'eventuale separazione. Questo aspetto da noi non è possibile perché sono considerati diritti indisponibili. Tornando a comunione e separazione, quello che deve... Che le persone che si sposano devono sapere che la distinzione è netta, nel senso che la separazione dei beni significa che ciascuno continua a avere una sfera economica e patrimoniale totalmente separata, quindi come due persone che non sono nemmeno sposate, salvo rarissime eccezioni, ma che qui non contano, alcuni dettagli. La comunione dei beni mette in comune non ciò che si ha già, ma ciò che si acquista durante il matrimonio, e poi non proprio tutto. Alcuni degli acquisti che vengono compiuti durante il matrimonio cadono in comunione se si è scelta la comunione dei beni. Io stamattina ho fatto un sondaggio tra un po' di colleghi sposati, non avendo un'esperienza in merito, e in realtà nessuno è riuscito a risalire con chiarezza al momento in cui deve stabilire se sposarsi in regime di separazione o comunione dei beni. Quando la dobbiamo fare la scelta? Allora, la scelta può essere fatta sempre. Nel senso che può essere fatta prima del matrimonio, durante il matrimonio, inteso proprio alla celebrazione del matrimonio, oppure anche dopo, perché comunque le cosiddette convenzioni matrimoniali, che sono quelle con cui si sceglie il regime patrimoniale, possono essere fatte anche durante il matrimonio, si può passare dalla separazione alla comunione e viceversa. Diciamo che è raro che le persone vadano prima del matrimonio a scegliere il regime patrimoniale. Se lo fanno, lo fanno per andare a scegliere la separazione dei beni, oppure per disciplinare, ma è cosa molto rara, una comunione dei beni non più legale, ma diciamo una comunione dei beni che i coniugi, che si chiama convenzionale, che i coniugi organizzano con alcuni limiti secondo le loro esigenze, però come applicazione, la legge prevede, ma l'applicazione è molto rara, quindi diciamo la scelta netta è separazione, comunione, si può fare prima e si può fare però anche al momento del matrimonio. Benissimo. L'unica cosa che si può scegliere al momento del matrimonio è la separazione dei beni. Certo, perché altrimenti se non si fa nessuna scelta, in automatico si cade in comunione dei beni. E si cade in comunione, si cade in comunione dei si beni. Cade in comunione. No, poi va detto che molta gente va al matrimonio senza saperlo. Esatto, e quindi non è che arrivare. Fa una scelta consapevole, allora, la legge sceglie per loro. Andiamo per tappe e sentiamo intanto Enzo da Firenze che prima di decidere se come dire contemplare nella propria vita una separazione, una comunione dei beni, vorrebbe in realtà sposarsi. Enzo, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora niente, no, io premetto una cosa, sono un ex sposato, separato, divorziato che adesso vuole risposarsi, quindi ho fatto i vari iter, dove confermo ciò che diceva il dottore, sicuramente se prima del matrimonio si dice questo è tuo, questo è mio e ciò che facciamo in comunione lo possiamo anche suddividere da entrambe le parti come comunione dei beni. Mentre per quanto riguarda il discorso della domanda iniziale che aveva fatto lei, era quella che diceva quanto costa e che sacrifici comporta sposarsi, perché sicuramente alla mia età, che ormai ho 42 anni, non è che sono un vissuto, ma Enzo, sono Enzo non offenda avuto... non offenda qua i radiofonici tutti presenti appunto no, ma dico, non è che sono un vissuto, però ho già passato certo. una vita matrimoniale, convivo con la mia attuale compagna da 15 anni e credo che sia un dovere sposarla e non conviverci. Beh, sarà una bella cosa anche per lei, Enzo, certo, un dovere verso la sua compagna, però... Però faccio una domanda. In un ceto medio come il nostro, dove uno stipendio va per l'affitto e il mutuo di casa e un altro stipendio va per alimenti ai figli con l'altra coniuge... l'ex coniuge... E l'altro serve per mangiare, per pagare le bollette, insomma, non abbiamo stipendi da 5.000 euro. Ma lei, Enzo, visto che lei comunque già una grande cerimonia nella sua vita l'avrà vissuta, lei perché vorrebbe comunque fare questo regalo alla sua nuova compagna, pensa che l'unica alternativa possibile sia ripetere una cerimonia altrettanto grandiosa, altrettanto importante per avviare una vita a due? No, però sicuramente non ho trovato niente al di sotto dei 15.000 euro. Anche facendo, come dire, il minimo indispensabile. Enzo, la ringrazio per la sua testimonianza. Ha concluso, voleva aggiungere altro? Perché no, così la... voglio soltanto dire che mi auguro a tutti quanti, quando fanno il passo del matrimonio, di essere consapevoli di ciò che ha detto l'avvocato prima. È molto importante per dopo. Certo. Anche se il dopo non deve mai avvenire, però possibilmente purtroppo la vita cambia per tutti. Infatti, e adesso diciamo è anche abbastanza, è un po' più facile del passato comunque decidere di interrompere la vita a due e di conseguenza sopportarne poi tutte le conseguenze. Anita De Sipio, quante chiacchierate di questo tipo, come quella che abbiamo fatto con noi, che abbiamo fatto noi con Enzo da Firenze, fa con le sue clienti? Guardi, mi capitano abbastanza di frequente, anche se non nego che la maggior parte dei clienti che si rivolgono a un'agenzia magari è alla prima esperienza, quindi con anche delle aspettative, delle illusioni, dei desideri da vedere realizzati, che a fronte dei quali sono disposti veramente a sborsare delle cifre a volte poco corrette. Ecco, l'ascoltatore ha fatto una cifra, ha parlato di 15.000 euro, che cosa può fare con questo denaro? Diciamo che la prima cosa che bisogna capire è effettivamente quante persone pensa di invitare a questo matrimonio, a questa festa, perché se intende fare una festa per pochi intimi, come a volte capita, soprattutto per coloro che celebrano magari le seconde nozze, allora già automaticamente gli si prospetta un ventaglio di soluzioni più ampio, quindi abbassando il numero dei partecipanti, gestendo una cerimonia in maniera più intima, più riservata, si riesce comunque a tagliare una parte di quei costi grossi, pesanti, che sono proprio quelli della ristorazione. Sicuramente forse dovrebbe evitare, ma penso che se non erro il signore chiamava dalla Toscana, quindi vive in una terra che offre delle alternative validissime a quelli che potrebbero essere strutture come ville, location, ma o sì, una bella festa in un agriturismo. Esattamente, una bella festa in un agriturismo, la Toscana ne è assolutamente piena e sono sicura che saranno dei posti validi dal punto di vista sia della qualità che dal punto di vista della presentazione, della loro esteriorità. E infatti, De Sipio, ci dobbiamo fermare adesso, ma abbiamo ancora mezz'ora di tempo per argomentare tutto questo. Io ci metterei anche un'altra considerazione, voglio dire, non è che siamo sempre sotto la gogna, siamo circondati anche da persone che ci vogliono bene, che magari sono anche in grado di rispettare totalmente le nostre scelte, anche se le facciamo in economia, perché altrimenti insomma tutto l'impianto familiare ci viene anche a cadere. Eccoci di nuovo in diretta stamattina, Salvadanaio, esploriamo un mondo che nel quale per la verità non ci eravamo mai avventurati, se non proprio per gli aspetti problematici che ne derivano, e cioè la separazione dopo un matrimonio. Oggi affrontiamo proprio il tema del matrimonio, quanto può costare anche in una fase di crisi finanziaria come quella, come si può così organizzare anche una cerimonia degna di questo nome, facendo contenti non solo i componenti della coppia ma anche poi tutti i familiari, perché molto spesso poi sono quelli che devono essere soddisfatti, cercando di insomma spendere qualcosa di assolutamente ragionevole. E ci stanno aiutando questa mattina Anita De Sipio, titolare di un'agenzia che si occupa proprio di organizzazione di matrimoni ad eMarriage e in Abruzzo, e poi ovviamente per tutti gli aspetti legati al regime patrimoniale che va ben organizzato prima del matrimonio e bene pensarci, molto spesso non si fa, l'avvocato Andrea Gragnani. Non ci si pensa, vero avvocato, prima del matrimonio a questo aspetto? Non ci si, beh, ci si pensa, dipende, perché in realtà ci si pensa molto più di quello che si crede. Tanto è vero che la comunione dei beni più o meno la scelgono, tra virgolette, nel senso ci cadono, come dicevo prima, il 20-25% degli sposi. Tutti gli altri sono in separazione, quindi se sono in separazione vuol dire che ci hanno pensato. Però a quelli che sono in comunione non ci hanno proprio pensato molto spesso, tant'è vero che quando vengono da noi e chiediamo loro qual è il regime patrimoniale della famiglia, non lo sanno di proprio. Che stiamo parlando, e allora quando ti dicono che non lo sanno, intuisci che sono in comunione dei beni. E i suoi amici che si sono sposati in California da poco? I miei amici che si sono sposati in California perché da poco... Perché l'avvocato è reduce anche da una attività di testimone, no? Fotografo, vabbè, a parte questi aspetti insomma di colore. Il no, gli amico... hanno fatto una scelta di risparmio oppure che no, cosa? No, no, loro hanno fatto una scelta alternativa, nel senso che è stata un'occasione particolare. C'era un nostro amico prete che per le vacanze scorse era stato incaricato di sostituire per 3 settimane il parroco di una chiesa a Hollywood, e quindi siamo andati tutti a trovarlo. Quando si dice la sfortuna. E allora, già che c'era, lui ha detto: visto che passi di qua con la tua fidanzata, sposati. Perfetto, e non si è dovuto portare indietro parenti. Eravamo in 7. Questa sì, vabbè, però è una scelta ovviamente... Per quanto riguarda invece l'aspetto più tecnico, cioè quello del regime patrimoniale, sposandosi all'estero non ha potuto effettuare una scelta del regime patrimoniale all'atto del matrimonio, perché si fa il matrimonio secondo le leggi dello Stato in cui ci si sposa, e ovviamente non hanno le regole che permettono a noi di fare la nostra scelta della nostra separazione di beni, e quindi loro automaticamente con quel matrimonio sono in comunione di beni. Insomma, come dicevo prima, Hollywood è sicuramente una scelta estrema, magari qualcuno proprio per evitare anche tutti gli impegni di una cerimonia che a volte anche non è neanche troppo confacente magari alle proprie esigenze, ma solo a quelle della propria famiglia, sceglie di andarsene da qualche parte in vacanza e tornare poi sposato, facendo poi magari arrabbiare anche le mamme della coppia. Comunque, Lorenzo da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno Pietro, io ho la mia testimonianza sentendo l'ascoltatore di prima che insomma mi ha chiesto minimo 15.000 euro. È ovvio che se comunque si parte sempre dal budget che si ha, è così. Comunque io come l'altro mi sono sposato, mi sono risposato eccetera, io ho fatto uno semplice in comune, travestito e mangiare, eravamo pochissime, proprio calzate certo. Sulle mani, insomma io con album massimo ho speso 1.000 euro, cioè per dire qualche fiore e così. E poi ritornando sul discorso di prima come si fa a sapere se i beni comuni, così a me mi hanno fatto firmare mentre facevo la cerimonia, ci hanno chiesto in comune. Lorenzo, no, mi spieghi una cosa, veramente con 1.000 euro che cosa ha potuto fare? Io mi sono sposato in comune, siamo andati al ristorante, abbiamo fatto un album. Ecco, sì, sì, insomma, una cosa, ecco, proprio, proprio il minimo indispensabile, no, per capire. È ovvio che si parte sempre dal budget, comunque, che si ha, logicamente. Quindi, per insegnare a ragazzo prima che alla mia età, 42 anni, io chiamo ragazzo. Giustamente, Lorenzo, lo devi chiamare ragazzo. Non servono 15.000 euro. Sposarsi vuol dire sposarsi, sì, se vuol dire invece un'altra cosa, allora... No, certo, Lorenzo, Per carità, il problema, la questione è che per lei, per esempio, anche in questo caso erano seconde nozze. Per chi magari fa per la prima volta questo passo, vuole fare qualcosa di un po' più importante. Mi sposo a maggio, la spesa non supererà i 13.000 euro. Con un'attenta e paziente ricerca si può risparmiare, Federico da Pesaro. Anita De Sipio, ci stanno scrivendo e telefonando tanti uomini. Allora, quando si parla di denaro e della gestione economica del matrimonio, intervengono gli uomini. Quando si parla del momento del sogno, dell'addobbo floreale, del vestito, piuttosto che di come organizzare il reportage fotografico della cerimonia, sono le donne più interessate. Non si interessano molto le future spose a questo aspetto? Guardi, non si interessano perché magari sono più sognatrici, però ci fanno comunque attenzione, soprattutto perché oggigiorno sono sempre più le persone che non hanno più l'ausilio, l'appoggio delle famiglie. Prima diciamo che si arrivava al matrimonio a un'età comunque molto più a un'età più giovane, cioè magari i ragazzi non erano ancora autonomi economicamente parlando e quindi avevano comunque l'appoggio delle famiglie. Ora che invece magari l'età del matrimonio si è comunque alzata, le coppie arrivano a fare questa scelta contando su quelle che sono le loro disponibilità e quindi anche le donne fanno molta attenzione a quelle che sono le spese cui vanno incontro. Poi magari messe di fronte a una scelta di una cosa magari più bella o comunque più esclusiva si lasciano tentare di più e quindi magari sono portate a spendere qualche cosina in più, però si guardano anche loro, non è soltanto un compito che ricade sull'uomo. Infatti, no, tra l'altro adesso c'è già un'ascoltatrice che ha chiesto di intervenire, però siccome avevamo in attesa anche Gianni della provincia di Bergamo e Antonio, vorrei sentire prima loro. Gianni, ancora un attimo di pazienza perché c'è un messaggio che mi incuriosisce, di un ascoltatore che scrive: ho perso l'inizio della trasmissione ma mi sembra che ci siano 9 tasse per chi si deve sposare, potete chiarire un po'? No, nessuna tassa, avvocato Gragnani, no. Forse ha sentito quelle cifre relative alla possibilità di sposarsi nella casa di Romeo e Giulietta e può costare qualcosa come 600 o 1000 euro. Quanto a tasse, almeno su questo? No, almeno questo. Infatti, e c'era l'avvocato, c'era il sindaco di Roma, insomma, che ha ventilato questa ipotesi di far pagare una tassa a chi vuole sposarsi nella capitale ma viene da altre città. Quindi Marcel, se questo è il suo nome, stia tranquillo che quantomeno questo aspetto è escluso. Gianni dalla provincia di Bergamo. Buongiorno. Buongiorno Gianni. Niente, io volevo porre all'attenzione dell'avvocato, sì. Esatto, di un argomento. Andiamo oltre al matrimonio, cioè una volta sposati, se uno dei due ha un capitale, una casa, oppure anche dopo sposati, premetto in separazione dei beni, sì. Anche dopo sposati uno dei due decide di acquistare una casa col consenso comunque della signora, si prende una casa e si intesta a uno dei due coniugi. E sempre andando oltre si apre un'attività che invece viene intestata all'altro coniuge, no? A quello che ha intestato l'immobile, sì. Diciamo. Se questa attività durante, non so, dopo un anno, due anni, ha dei problemi fiscali, non può, sì, essere attaccata a livello economico e non la proprietà dell'altro, insomma, ci si può rivalere dall'altra parte. Gianni, credo che il regime della separazione dei beni cerchi proprio di evitare queste situazioni, avvocato Gragnani. Diciamo, non è questo il suo scopo, però l'effetto è questo. Nel senso che, come dicevo prima, le due sfere economico-patrimoniali sono tenute nettamente distinte. Quindi se non ci sono situazioni strane dove uno dei due in realtà poi può risultare socio occulto dell'altro, oppure se non ci sono state fideiussioni e cose di questo genere, ma se la situazione è esattamente lineare come l'ha descritta l'ascoltatore, la sfera economica dell'uno non può essere compromessa dai problemi economici dell'altro. Perché ha detto lo scopo non è questo, ma l'effetto è questo? In questo caso lo scopo non è quello. Perché lo scopo della separazione dei beni non è quello di proteggere un soggetto dagli attacchi creditori dell'altro. Diciamo che per questo, per esempio, c'è un istituto specifico, che è quello del fondo patrimoniale, per cui si segregano, diciamo così, alcuni beni per soddisfare i bisogni della famiglia. Il primo bene che si mette, ovviamente, è la casa in cui si abita. E i creditori che non siano creditori per debiti assunti nell'interesse della famiglia non possono aggredire questo bene. La separazione dei beni non ha, così come la comunione, non hanno lo scopo di proteggere o di mettere insieme i due patrimoni. Semplicemente la separazione li tiene distinti e quindi è come se fossero due perfetti sconosciuti rispetto ai creditori. Perfetto. Antonio da Vicenza, benvenuto. salve. Niente, intanto complimenti per la trasmissione. Grazie. Molto, rendete facili questioni economiche molto difficili anche negli altri. Beh, stamattina voglio dire, è stato oggi anche è facile, un argomento anche sì, leggero, no? Insomma, sì. Niente, leggero, oddio, per modo di dire. No, infatti, io mi sposo a settembre e effettivamente bisogna girare tanto per trovare dei prezzi interessanti, perché anche a parità di scelte, fioristi che ti sparano 5.000 euro per lo stesso servizio che te ne possono far per 1.000, ville che se ne approfittano perché domandarti 2.800-3.000 euro per una giornata, per quanto sia bella la villa, sembrano tanti, insomma. E comunque volevo dire che... Ma ha dovuto fare Antonio per sposarsi in tranquillità, rendendo felice anche la sua fidanzata in settembre. Comunque, su che cosa ha deciso di risparmiare molto? Magari ha fatto anche delle rinunce che le sono costate? Beh, rinunce, sì. Abbiamo avuto comunque una mano da parte dei genitori, perché abbiamo appena preso casa, un po' tutto, insomma, diventa complicato tutto insieme. Fortunatamente abbiamo avuto l'appoggio dei genitori di tutte e due le famiglie. Se no, comunque, avremmo dovuto ridurre ulteriormente comunque la scelta di certe cose, insomma. O comunque magari rinviarla ancora di un po', no? In attesa di tempi migliori. Antonio, la ringrazio. Matrimonio, quanto ci costi? Il tema che stamattina affronta Salvadanaio, tra chi vuole così poter realizzare il suo desiderio di un matrimonio in grande e chi invece magari ha la seconda esperienza di nozze, chi ha già compiuto la prima e comunque è riuscito a risparmiare, a non spendere cifre folli. Insomma, tante testimonianze questa mattina, ma anche ovviamente tutti i consigli per poter organizzare il proprio regime patrimoniale nella maniera appunto migliore possibile. 800 24 00 24, numero verde per i nostri ascoltatori per intervenire. Vorrei sentire Elena da Brescia, poi tornerò da Anita De Sipio, titolare appunto di Adi Marriage. Elena, buongiorno. Elena è caduta purtroppo, ma ci voleva raccontare che ha fatto tutto da sola e volevo sentire anche quanto avesse speso. Leonardo da Luca, ci dica un po' che cosa ha combinato. Io in pratica ho conosciuto mia moglie nel 2007 e dopo 15 giorni sono partito per gli Stati Uniti perché ho qualche lavoro là, mi occupo insomma di escavazioni, e quando quando sono tornato dopo 3 mesi mi sono sposato. E sto benissimo. Ha trovato la donna della sua vita, ha fatto bene, insomma, l'ha voluta. Sì. Sì, perfetto. Però per festeggiare l'anniversario, un anno dopo, noi siamo andati a Las Vegas e ci siamo risposati a Las Vegas per la seconda volta. Sì. Voleva raccontarci la sua esperienza, ma in realtà questa sua esperienza, Leonardo, l'abbiamo scelta perché secondo noi c'è qualche problemino. Avvocato allora, Gragnani, bisogna capire se hanno fatto un matrimonio vero, cioè che è valido là per la legge degli Stati Uniti, o meglio dello Stato del Nevada, e quindi se esiste poi un vero atto di matrimonio trascritto nei registri della contea, della Clark County, che è la contea di Las Vegas, oppure se invece hanno fatto semplicemente una cerimonia per scherzo in un albergo, magari lui con lo smoking rosa, lei vestita da cowgirl, e tanto per ridere. Allora, perché nel primo caso, se è un matrimonio vero, in teoria potrebbe essere considerato un caso di bigamia, anche se poi non ha conseguenze penali particolarmente gravi, perché la bigamia in realtà significa sposarsi due volte, ma con due persone diverse. Esatto. Però, siccome poi c'è qualcuno che questo errore lo fa anche a ritroso, cioè si sposa là e poi si risposa qua, questo può creare tutta una serie di problemi, perché se uno per esempio si sposa negli Stati Uniti e poi si sposa in Italia, il vero matrimonio, quello valido, è il primo, perché il secondo è nullo. Nel loro caso il loro secondo è nullo se è un vero matrimonio, perché anche per gli Stati Uniti esiste la bigamia. Quindi sarebbe meglio evitare queste cose. Abbiamo pure messo questa pulce nell'orecchio a Leonardo, che forse è meglio che vada un po' a fare attenzione a quello che ha. Eviterei, e soprattutto eviterei nel senso contrario, perché siccome sono alcuni che lo fanno, che magari per evitare tutti gli impicci burocratici di andare a trascrivere quello americano, si risposano in Italia, sappiano che se poi si devono divorziare, quello da sciogliere è quello americano, perché quello italiano è nullo. E nel momento in cui lo vuoi trascrivere ti denunci per bigamia e ti segnalano alla procura, quindi lasciamo stare. Visto che stiamo ancora viaggiando peraltro per casi estremi, Anita De Sipio ci racconta il matrimonio più costoso in assoluto che le è capitato di dover organizzare. Che cosa ha dovuto fare? Guardi, la stupirò, perché forse il matrimonio più costoso che mi è capitato di organizzare era un matrimonio di una coppia di americani che è venuta in Italia a sposarsi in seconde nozze. Mm-hmm. E quindi chiaramente, anche se erano un gruppo assolutamente ristretto di persone, perché erano forse neanche 30-32, però hanno avuto una gestione legata proprio al trasferimento di questi ospiti dagli Stati Uniti in Italia, il loro pernotto in hotel, più tutte quelle che sono state le spese organizzative della cerimonia. A tal proposito mi preme, diciamo, sottolineare forse una cosa che a molti risulterà ovvia, ma non credo per tutti. Ci sono comunque dei costi fissi nell'organizzazione di un matrimonio che prescindono dal numero degli invitati. Certo. Uno fra tutti potrebbe essere l'allestimento della sede dove si svolge il rito, o anche lo stesso servizio fotografico. Cioè, tanto che ci siano 20 persone o tanto che ce ne siano 200, il fotografo candidato o il fiorista che deve fare l'allestimento comunque fa lo stesso tipo di lavoro. Quindi, che cos'è alla base dell'allestimento per poter ospitare la cerimonia? Cosa c'è, De Sipio? Sicuramente, per quanto concerne gli allestimenti per le cerimonie religiose, bisogna prevedere un addobbo floreale da portare all'interno del luogo scelto, e a cui molto spesso si affianca anche un allestimento diciamo più scenografico, legato proprio a tutto ciò che magari la parte tessile. Quindi no, il fatto che l'addobbo floreale peraltro fosse obbligatorio mi era sempre completamente sfuggito, qualunque fosse la sede scelta per il matrimonio. L'addobbo floreale? Sì. Ma non è obbligatorio, non è obbligatorio, però le garantisco che soprattutto se il matrimonio viene svolto all'interno di chiese, sì, certo. Comunque sono gli stessi parroci che richiedono in alcuni punti particolari della chiesa l'inserimento di un bouquet o comunque di una composizione floreale. Certo, chiarissimo. Poi è chiaro che ognuno fa diciamo del suo meglio, quindi magari c'è chi si limita soltanto a questo, oppure c'è chi fa cose molto più impegnative, che poi non obbligatoriamente devono essere lasciate in uso alla chiesa, anzi molto spesso viene chiesto proprio che vengano tolte, perché comunque la loro eliminazione poi sarebbe anche impegnativa. E infatti è comunque molto spesso per comodità, infatti si lascia. Esatto, allora vorrei sentire un'ultima telefonata, che è quella di Maria Agnese dalla provincia di Monza e Brianza, perché anche in questo caso ci ha fatto molta tenerezza la scelta di una persona che dopo una convivenza durata tantissimi anni ha scelto adesso di convolare a nozze. Maria, rapidissima perché stiamo chiudendo, la ringrazio. Sì, dopo 25 anni di convivenza avremmo deciso di sposarci. Sì. Premetto che io ho una figlia avuto da un precedente uomo. Sì. E ci siamo posti questo problema. Vista la nostra situazione, sarebbe meglio la divisione dei beni oppure no? Avvocato Gragnani, questa è per lei. Che cosa suggerirebbe di fare? Comunque queste due persone hanno già una vita in comune che dura da tantissimo, hanno già accumulato una dote comune. Ma quello è il punto. Bisogna tenere bene a mente che la comunione dei beni e la comunione degli acquisti che si compiono dopo che si è entrati in comunione. Quindi comunque, a meno che non si faccia una comunione convenzionale in cui si inseriscono tutti i beni precedenti. Non l'ho mai visto accadere, però comunque è tecnicamente possibile. Quindi bisognerebbe capire la loro situazione patrimoniale, però sappiano che se scelgono la comunione dei beni per come è disciplinata dalla legge, la cosiddetta comunione legale, la comunione avrà effetto per gli acquisti che verranno compiuti dalla celebrazione del matrimonio in poi. Un'ultima domanda per lei, avvocato. C'è un ascoltatore che chiede se la divisione dei beni conviene fiscalmente. Ce lo chiede Damiano da Roma. La separazione dei beni, sì, divisione dei beni, separazione dei beni. Ma no, non ha delle conseguenze fiscali una scelta o l'altra. Quindi no, direi di no. Non. Benissimo, noi abbiamo concluso il Salvadanaio di questa mattina dedicato ad un tema inconsueto per noi, ma che ci ha molto divertito. Io ringrazio molto l'avvocato Gragnani per essere stato con noi, che imperterrito prosegue nella sua scelta di non convolare a nozze, ma adesso a parte gli scherzi, ognuno poi fa questa scelta, e ovviamente tutto il massimo rispetto anche a chi vuol fare una scelta di questo tipo organizzando la cerimonia dei propri sogni, e anche la più importante possibile. Grazie molte ad Anita De Sipio per essere stata con noi. Grazie a voi. Tra l'altro, dove la possiamo trovare qualora volessimo conoscere qualcosa in più della sua attività? Ma sicuramente sul mio sito internet www.addimariage.it. O comunque in Abruzzo io. Benissimo. Sono Chieti. Tra l'altro non abbiamo neanche potuto raccontare esattamente poi come funzionano le attività di queste agenzie. Ci torneremo allora un'altra volta. Devo chiudere in fretta. Grazie a tutti. A domani. Salvadanaio.